sentito niente, non ho sentito niente, anche perché, ti ripeto, stamattina era incasinato. Poi, vabbè, domani mattina devo portare mia moglie all'ospedale per fare i controlli, con la speranza che le tolgano i punti e il chiodo che gli hanno messo. Adesso vediamo, speriamo, certo, almeno insomma, può camminare un po', se no è un bel casino. Già siamo già arrivati a 31 gas, gli va per un rifimmiri. Vabbè, qua ti volevo dire, ma ce l'hai interno il chiodo? Sì, interno, io lo tocco, perché le medicazioni le sto facendo io, lo tocco il chiodo, un pezzo esce vicino al dito, boh. E quindi lo tirano da lì, ma c'è come lo tirano, con le pinze. Mamma mia, non viene a dire che se lo manco ci va, è una vite, capito, è una vite, perché io gliela tocco vicino al dito grande, al pollice gliela tocco, e quindi sicuramente la tirano da lì, come stai dicendo tu. Minchia, che mi ha rotturato in balle. Viviana ne aveva due a croce, quando è caduta e ci ha rotto, e come si chiama, il manlevo, gli hanno messo due a croce e l'ho portata io, sono stato dentro quando gli hanno tutti, vabbè, te l'ho detto come gli hanno tutti, no? E poi ha detto, chi è che vuole uno spiedino, a chi serve uno spiedino, e roba di sa che mi ricurso. Ma così dal vivo, prendono la pizza e tirano. Girano prima da una parte, poi dall'altra e poi tirano. Mamma mia, ragazzo, ne ho due, senza anestesia. Sì, riesce appena appena di sangue, come vabbè, forse quello di Diana è diverso, ma quello di Diana erano due spiedini grossi. Non tirano così, poi riesce appena appena di sangue, lo medicano, gli mettono un po' di cosa, di mercurocromo. Tutto lì e li passa tutto, li mettono un cerotto per assorbire bene il sangue, boh, basta, tutto lì. Sugar, bello gasino, bello gasino, bello gasino, vabbè, d'altronde è così. L'operazione comunque è andata benissimo, non c'è problema, tutto positivo, però mo vediamo. A se vado a controllare il forno già, tanto fra un po' mi preparo, tu non lo porti il cane? È un po' più tardi, cazzo, non ho avuto prima oggi, non ho avuto prima. Perché non sta più meglio adesso, mi capite? C'è più che lo porto sotto i buti. Aspetta, controllo il forno, aspetta. È mobilene tutta la... Dai già, ci aggiorniamo dopo e vado a portare il cane, ok? Ehi, vai tranquillo. Tanto non subito intanto, porto qua giù un attimino. Chi è? Bobozzi. Qui a tu. Già. Mi sto mettendo, credo che è pronto, ma in carica. Cosa ti metti in carica? Non ho capito. Il tonton. Ah, te l'ho preso. E c'era un po', c'era quello grande, quello per la televisione. Io sono lo stesso, non volevo, poi è rimasto un anno fermo, è partito il condensatore e non l'ho più trovato. Va bene, lasciamolo fermo. Adesso ce l'avrò 4 anni fermo, 5, boh. E mi era bello, meglio. Ce l'ho conservato in qualche mobile. E il condensatore è partito. E vabbè. L'ho trovato a usare tutte le parti, non l'ho mai trovato, e tu sei a Biglialucci. Non ne fanno più. E io lo sto sintonizzando adesso. Il mio si aggiornava da solo, via. Andrò bene. E domani io lavoro sino a mezzogiorno 20. Infatti mi hanno dato un uomo che è entrato, dice, prendi a Fabio. Ho detto sì, ma io già lo so che tu devo fare la posta. E così posso fare con Fabio? Siccome non sono figlio della sabbia della scuola. E dice, non lascio le gambiotto sotto a sistemare tutto. Ok, va bene. Contenti loro, contenti tutti. Noni, aumenta la potenza. Ti ascolto, tutto strappato. Strappato. Che sono la mattina che sono scarica. Per me deve passare, che sono io che arrivi un po'. Troppo alto, Sheikha, ti ascolto tutto strappato, questa volta non è la radio. Mi sono sfuggito. Aspetta un attimino. Minchia, arrivo. arriva una cosa allucinante, un sugar troppo, troppo acuti, troppo alto, poi il tono è più tre, vuole tenuto basso, sennò è un casino. Io sono per me che normale, va bene. Adesso sì. No, ma puoi tenere anche quello là, battere la bassa un pochino, perché c'è un bel di acuti e va in distorsione. Secondo la radio che io uso, me la manda in distorsione. E Gianni mi ascolta bene. Ma Gianni c'ha un baracchino, io c'ho un HF. Se vado col baracchino ti sento bene anch'io, ma qua i filtri sono quelli, Me la manda in distorsione, hai capito? Troppo alto come tonalità, mi... Scappa, avanti già. Spegni il tuo pezzo di... Dai, no, intanto sto andando a portare il cane, Tony, dai, ci sentiamo dopo. Ciao. Ok, d'accordo. A dopo allora, Claudio. Dunque Gianni sta facendo cosa? Sta caricando. Vabbè. Ma non pensate che in ascolto che sta caricando batterie, no? La potenza, leva la potenza, a manetta c'è la potenza del Galaxy, mettila al massimo, cazzo. La potenza del Galaxy è al massimo. Come mai allora sei così basso, Tony? Non è il tuo segnale qua, Non è il tuo segnale, sei molto più basso. Aspetta, proprio, aspetta, fammi. Forse Gianni non se ne accorge, ma cazzo, boh. Sì, ne mancano vendesi. Poi quando fa uno scala, come faccio a accorgere? Ma qua è neanche 9:10, deve arrivare 9:20 lui. Avanti. Prova. Aspetta. Non so cosa dirti, non ti ascolto bene, bene, bene, bene stasera, non lo so, non lo so, Gianni sta arrivando benissimo, alla grande. Dai, vado a portare il cane io, controlla comunque, perché non è il tuo segnale, Gianni sì, ma il tuo no. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova di modulazione. Tu di Aldoni, boh, io non riesco a comprare, mi vai a sultare, cazzo. Cazzo stavi usando, cazzo? Una specie di roccio. Cosa? Una antenna, fatta a me. Ma cazzo, mi vai a sultare, dimmelo, no, cazzo, provando un'antenna piccola. Cioè, io penso che ci siano problemi anche da me, non è detto che i problemi siano i tuoi, Adesso tieni il timer così, più 3, abbassalo appena, appena, appena. Guarda, allora, fai così. Così va bene. Così è uno spettacolo, Tony. Questa è la misurazione del gas. Perché c'hai un bel di acuti, capito? Secondo come gridi, vai a strappare. È un peccato, siccome col microfono esce bene. Devi tenerlo un po' una media, devi avere. Questa è bellissima la modulazione. 3/4. Così va bene. A me stava scendendo un cuscio, cazzo, non mi dici una cosa allucinante. Ha detto qua che cosa l'antenna è successa, ma poi ho visto il segnale di Gianni e il suo. Gianni arriva sempre 9:30 che con l'antenna di Ruscio, Beh, se siete vicini è normale, e anche Roberto, qualsiasi antenna mette sempre fondo scala. Dai che vado a portare il cane, ci sentiamo dopo, riprendi già. Ehi, dai, qua. Buona passeggiata. Dopo vado anche io, mi voglio rilassare, altrimenti perché ce l'ho avuto il trigo, come ti ho detto. Una cosa l'altra, una cosa l'altra, non ho manco riposato. Poi, per carità. Va, ripeto. Se dovete fare cosa tutti riposare, va bene, dai, io mi sposto, mi preparo la ceruzza e ci sentiamo più tardi, ok già? Ieri sono entrato, non era nessuno, e ho scritto tutto. Non c'entro se te entrato. Perché io sono uscito pure, sono andato a comprare la bombola, la 50, a portarvi a tutto, capito? Poi ho sistemato i cani, qua, là, eccetera, insomma. Adesso mi dite, neanche io ho riposato, guarda, niente. Adesso mi devo preparare la cena, mi sono lavato tutta la roba a dire che tu mangiavo, non ho lavato nulla, e me la sono lavata poco fa. E ho preso il tempo così, e tu vuoi se c'è, chi c'è? No, io ho un'altra mezz'oretta e gli avrei posso trattenere, dopo vado giù a portare il cane, manco mezz'ora, è un quarto d'ora. Poi lo porto giù e dopo risalgo, se ci siete mi faccio una chiacchierata. Già, io mi voglio guardare anche il telegiornale che inizia alle 8, capito? E ne approfitto di prepararmi anche la cena. Al limite io accenderò verso le 9:15, 9, non più tardi, capito? 9:15, perfetto, sì. E allora portare sul cane, buonanotte, portare sulle... solo una volta, sono a casa. Ti mangi qualcosa anche tu e poi ci sentiamo tutti quanti, ok? Mi ha fatto male una mozzarella, ma io la mozzarella a pranzo, che se va a essere guasta, cosa ne so, la ricutita e mi è venuto questo mal di pancia da crepare. Guarda, io mi sono fatto le favette e ho messo anche la pancetta, quella pancetta non so, non l'ho sopportata. Stamattina alle 2:15 mi sono alzato e dirò a Cussi, la mazza di Nevaria. Io idem. Sono buone le favette con la mentuccia e con la pancetta fumicata, sono ben buone. E infatti ho messo la pancetta fumicata. Mi auguro che non era passata, non lo so. Cazzo, l'ho presa 2 giorni fa, porca Eva. E vabbè, io non guardo la data, da oggi tu guardo la data. Ma facevo, guarda, bagno, venivo a letto, mi coricavo, 5 minuti, mi rialzavo, direi in bagno, ma roba delle 4 ultimi già. Perché mi mettere sempre delle pastiglie di... cosa mi do io? Mi do delle pastiglie Imodium, queste qua, queste pastiglie qui che ti bloccano su. Sì, Imodium. Che a me a farmacista una volta mi ha detto no, non ti conviene, lascia sfogare, sì, a vera volta che a me bussate con un gomolo. Niente, invece io ho trovato un rimedio, acqua, limone e via. E che fa piccio, così mi ha detto il dottore che il limone fa piccio. No, che stringe, mi fini la gassa. Si pensava così, ma i dottori dicono di no, dicono di no, io ho detto, ma no, per carità è peggio, mi ha detto, peggio. Poi ci vuole riso e bianco, patate bollite e carote bollite, ecco cosa mi ha detto che devo mangiare. Sì, ma il dottore può dire quello che vuole, ma se io sono una vita che piglio acqua di nome e mi basta e non mi viene più la cagarella. Io me lo prendo anche senza essere come pulga. Il limone a me mi piace, io metto acqua, limone, zucchero, ma invece che zucchero metto un dolcificante, ed è buono. No, io zucchero niente, perché ecco, diabete no, non va, è il contrario. Andavo oggi alla segretà, quando sono entrato dal vero oggi, c'erano tutti, spumante, via, ali, birra, di tutto vera, il direttore. E lei, la segretaria, ha detto, a tu, tutti negativi col tampone ieri, fessa. E quindi ti sei gutto? No, ho avuto soltanto una goccia di spumantino, e c'era Giuseppe, il mio collega, fa, a tu sei manco, mica la puoi bere, come la posso bere, e mica sono malato. No, ma tu sei astigo, e un bucettino se mi fessa, dai. Ma per una data prima di nulla. E adesso vabbè, no, io il zucchero non ne metto uno nel limone, metto il dolcificante, infatti l'ho detto, ci metto lo zucchero, ma metto il dolcificante. E cazzo. Ma io già ce l'ho detto, ma non è vero che questo è il principio, capito? Cerco di evitare i dolci, tutta questa roba qua. Anche se stamattina Alghero, lo sentite con la mediana Mattizia, mi ha dato un pezzanino di torrone, mi ero lindo. Ho detto, cavolo, tu mi vuoi ammazzarmi? Dai, per una volta non fa nulla, pezzettino. Il torrone è micidiale, è proprio nauseante da quanto è dolce, cazzo. Il torrone proprio è micidiale. Io no, a me non è che mi piace tanto, perché è troppo dolce. E mi nausea. Mi piace solo quello col biscottino. Te, brusiliato sì, no, era già, hai visto quei torroncini piccolini, quasi quadratini, ma piccoli piccoli, che sono turchi di Ravalla, uno di quelli piccoli ho mangiato lui. Quelli sperlati. Io sono, a chi piace che sono buoni, io non è che ci vado amato con il torrone, è la verità. Te l'ho detto, a me piace quello col biscotto, un po', però, sì, sono andato a Alghero, visto che eravamo all'aeroporto, sono andato a prendere mia figlia in taglio che andiamo a farci un giro, che così vedo il mare, se no poi me ne fatto, non ho visto manco il mare, che dopo non si può più uscire. E siamo andati a farci un giro a Alghero. Poi sono detto, amici, c'è il mercato aperto, io che andiamo al mercato a vedere cosa c'è di buono. E c'era, cazzo, pesce spada, bello, cazzo, me l'ho preso 3 tracce e me le ho fatte la pizzaiola, la gigante la volta, me l'ho fatto fare un po' grossa. E beh, ti credo che è buono, quindi era venire stamattina? No, ieri. Ah, ieri. Ma ieri era stasera lavoro, oggi è Alghero e domani sono a Porto Torres. E domani devo scendere anche a Porto Torres, perché perché devo scendere con mia figlia, non lo so, anche la scendiamo, questo l'ho comprato. Niente, io sono un ragazzo nuovo domani, perché i furgoni sono presi il permesso domani, capito? E siamo rimasti sotto in quattro, due nuovi e io e Giuseppe, quello di Sosso. E quindi, niente, mi ha chiamato il coordinatore, ma è tanto domani, ti prendi su a Fabio, dai, lo ha portato, ho detto, sì, ma lo sai che io a mezz'ora meno quattro voglio essere di nuovo in sede, che devo prendere la panna a fare la posta. E vabbè, e a Fabio, dirmo, siccome non si fida la sera, questo ragazzo solo, capito? Il furgone nuovo e tutto attrezzato che abbiamo preso nuova, c'è da poco. E niente, dice, lo lasci giù nel box e gli fai mettere l'ordine. Fermo così. Ma sa operare, sì, oppure proprio deve imparare l'azienda. E non so che mestiere faceva prima, non è che sa ora che ha capito. Ormai noi, idrico e litrico, e l'altro mio collega lo stesso, del Bovino, Giuseppe, c'è già 16 anni con noi, io ci sono 23 anni quindi. Ma lì ci sono entrati, ne ha commesso bisogno. Vabbè, lì ce l'hanno imparato, tutti abbiamo imparato da qualcuno. A me quando io sono entrato mi hanno insegnato come era l'apolo, io dopo sono andato avanti, però all'inizio mi hanno insegnato tutto quanto, mi hanno fatto vedere le cose, tutto quanto. Ma io di elettrico già ne masticavo, capito, quindi ho imparato l'idrico, ho imparato seriamente il tapparello, questa roba qua, perché prima facevamo un po' tutto. Poi ho visto che noi avevamo quello della Moria, allora ho fatto le squadre accoppiate, uno elettrico, uno idrico, e quindi lavorando insieme impari altre cose, quindi impara l'arte, metti la parte, dicono. E molte volte mi mandano anche da solo, giustamente, perché manco personale, allora quindi vai da solo. Beh, tu già facevi il muratore, quindi immagini avevi già di qualche cosa. No, io facevo il carpentiere. Ah, carpentiere, e vabbè. E che cosa cambia? Il carpentiere è quello in ferro, così. In legno. Però ci ho fatto, aspetta, già. In casa mia ho fatto tutto io. Il pavimento, il placcaggio. Io abito da 50, quindi di moschichetta ne ho. Qui poi in campagna ho fatto cartone caframato, e ho fatto un bagno, e i lavori già ho fatto, faccio mobiletti, quindi praticamente già un po' di tutto lo faccio. Ho attrezzatura, ho fandura. E più che avrò un po' di manualità, poi queste cose si fanno, non è che... E anche io adesso mi sono fatto un po' di lavori a casa, la finisce di sopra, c'è la gatta a casa, e... si stava sfogliando tutta la pittura, ho dovuto tutto pitturare, un casino, ma... Gli ho detto di venire a vedere, non mi è giusto, ma capisci. Niente, poi illuminazione qua. Tu avevi già visto tutta l'illuminazione che avevo fatto qua in campagna? Dammi il bedivella. Bicicletta? Bedivella. Bicicletta. Dammi, ok. Buonasera, ma, beh, già, ma la spesa è tua il danno, la spesa è sua. Cosa? Basta, cosa devo fare? Alla fine non mi posso lasciare a casa così, no? Questo qui casa c'ha anche i debiti di condominio, di gozo, non i gavibili, dai. Dai, insomma, cura stavolta con un figliolo, insomma. No, no, no, quello che stavo dicendo cosa è che la ci sono più tenziti. Carità, cazzo. Vabbè, comunque il danno, chi lo crea lo deve pagare. Lo so, però glielo ho detto 30 volte, non vi giuro. Cosa devi fare? Non mi rimarro pure. Fa una cosa che non ha avvocato, perché ci paghi più da avvocato che del danno che c'è. Ho preso, pitturato io, stuccato, fatto, pitturato e fatto io. E l'ho rimesso a posto, perché per Natale doveva venire gente, non mi viene via a far vedere la casa d'uscita. Avanti tu le riprendi. E io invece che tutto a posto, comunque niente d'ultimo, lavoro domani fino a mezz'ora 20 e poi mi gatto le palle fino al 4. E io lo so per il 3. E allora. E va bene così, dai. Comunque ti posso dire che da una parte è meno, dall'altra parte è brutto, perché stanno volando le giornate, ma come una colloca. Fai a rimane a andare, gabbo. Solo che c'è questo, diciamo, questo casino del coronavirus, non siamo qua di Natale, via, alla fine. Lo so, purtroppo è c'è casino perché la gente non rispetta mai quello che deve fare. Avanti già. Ehi, ho detto la parola mai finita. Io lavoro domani e boh. Allora lavoro sì, da portore e me ne salgo alle 11:15. Arrivo in sede, mollo la macchina, quel ragazzo lo faccio aggiustare sul gabbiotto, prendo la panda e faccio il giro apposta, ci metto un'ora e qualcosa e poi me ne ando a casa, finito, in ferie, rientro il 4, perché la siamo in ferie fino al 2, il 2 è sabato, non si lavora domenica neanche, rientriamo il 4. Quando vai in pensione tu lì, questa, prossimo anno? Eh beh, per forza, quel cacchio patronato mi ha incasinato tutto, anziché fare una domanda di pensione, mi ha fatto la domanda con calma, che ci passa col coronavirus un casino, e i contributi che ho, la matta di rimbalzo, ce l'hai 2 secondi, ce l'hai, gambo. Bene, sta andando, sì? E poi ho parlato con un'altra Mirella che c'è via Lipstar, che si intende in queste cose, mi ha detto, Anto, a Futendini fai fino ad agosto e prendi la massima a Futendini, tanto 7 mesi passano veloci. Ma tu dovevi già andare così? Io volevo già andare per il fatto che l'Erina del Disco, ma dato che il 13 di gennaio sto partendo per l'Erina del Disco, me lo pareggio, continua a lavorare, buonanotte. Dovrei fare anche un po' di coso, devi, un po' di riposo devi fare. Almeno un mese che lo faccio, ho fatto già i biglietti, niente, devo per forza fare Sassari, Umbria, Umbria, Livorno, con la, come cacchio si chiama quella nave, quella nave bella, lussuosa, non me ne ricordo più. La Mobi? No, l'altra, quella che arriva anche a Palotorsi. Ah, la Grimaldi? Sì, sì, la Grimaldi. Poi da lì devo prendere il treno, andare a Bologna, poi da Bologna a Ravenna, ma è carità, infatti sto partendo il triste per quel motivo. Quando si poteva fare anche a Bologna di turista ci andava. Beh, pagano per l'operazione turista. Cosa? Ma devi, ti devo pagare. Gappa. Stai pagando? Nulla, zero, ho pagato solo la visita, 150 euro. Ah, ho capito, quello sì. Gappa, Cotignola, provincia vicino a Ravenna praticamente. E anche Manuele viene con me, anche lui ci ha fatto la visita, lui è più messo male un po' di me. Perché lui ha fatto il disco, a me ti ha mai tutta detto così, ci rimettiamo subito, e il dolore non è più. Emanuele fa il disco più 2 piccole stabilizzatori nelle vertebre. Pure ci sono forme di mal di schiena, qua. Non ne hai idea, un beh. Sta bene, bene. Sono lasciato le scarpe che mi viene l'affanno. Ma io mal di schiena non ne ho. A me mi fa male, dalla natica destra, tutto il piede dietro. Il polpaccio pare che mi sottirendica, poi sotto il tallone non ho sensibilità, è un casino. Faccio 10 passi, mi devo bussare, mi faccio mai. Ma adesso basta, mi sono rotto le balle, adesso mi opero. Ma è beh certo, avanti già, riprendi già, io sono in cammino però piano. Se di come va tu, questo microfono. Strano. Vabbè, ci siete dopo, dai, riprendo dopo a casa. Ehi, io ci saremo sicuramente, dai. Che se ce la portare il cane, tu li dai, vai a prepararti da mangiare. Io mangerò, non so se mangio o meno, perché non sono stato bene, dai. Mi sa portare la magribata. Ma io non è che mangio molto, un pezzo di formaggio, vedi, c'è la bigliallucci, c'è ancora il grano a padano, c'è la peretta, un pezzettino, non ho tanta fame. Quindi, dai, ci sentiamo dopo allora, dai. Ok, forza il Caruso. Ciao Gianni, ciao Bicicchè. Ci sentiamo dopo. C'è pure anche Claudio, già dopo. Ehi, apri. State attenti, c'è sempre gente, anche se voi non la sentite, ma c'è sempre gente. Io vi sento quando parlate tra di voi all'Alghero. Se c'è gente con segnale basso, disturbate. Capito? Vabbè, comunque, non c'è problema. Noi sempre qua siamo, io sono sempre in ascolto. Va bene, va bene. Non problem, stai arrivando benissimo comunque. 9 più 20 di Radio 5, questa è la radio che... quella che non funzionava, che ho messo a posto. Adesso risponde bene. Cappa, buonasera, mi sentite? Attenzione, copiate Antonio, Cappa. Ho una 5 elementi della PKW, c'è qualcosa da scambiare? 5 elementi, nuova della PKW, già pronta a piazzare, già segnata, tutto. Elemento per elemento, io l'ho smontato, ho smontato tutto il sistema. L'altro elementi l'ho già fatta fuori, mi è rimasta quella. C'è qualcosa da fare scambio, perché è abbastanza costosa quella. Attenzione, copiate Antonio, mi sentite? Eh no, c'avevo lo squarciscito, chi è che chiama? Io sono, Antonio sono. Ehi, ciao Antonio, sto parlando con Alghero, però avevo inserito lo squelci. Cappa, buonasera amico di Alghero, mi senti? Cappa, dai, no, io già ti riesco a tirare fuori da Alghero. Ok, pure tu, super giù, sei 5, sì, dai, la radio è 5. Io l'ho pagata però. Se serve a te, ti ho detto, non mi interessa, se hai qualcosa da scambiare. Sì, una 5 elementi della PKW. Dovrebbe averla anche Marco, simile a quella, non so chi ce l'ha. 5 elementi, ha un boom di quasi 6 metri. Quasi 6 metri, no, cazzo sto dicendo. 4,50 m forse, neanche 5 metri di boom c'è. Molto robusta, buonissima, nuova. L'avevo pagata 400, poco più di 400 euro, non so se era 460, 470, una cosa del genere. Capito? Quindi non lo so se c'hai... non c'avevi un televisore tu che stavi mirando? Sentiamoci, non c'è un problema. Non ce n'è problema, vabbè, quando vuoi, fatti dare il numero da Vanni, ce l'ha Vanni il mio numero, te lo fai dare, mi chiami, sicuramente dopo che ci lasciano liberi, capito, perché dal comune a comune non ci possiamo spostare, quindi insomma, vediamo un po'. Ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. A me serve un televisore che non sia piccolino, ma che non sia neanche troppo grande, perché si è bruciato il mio, l'ho buttato via, ne ho preso un altro, però me ne serve un altro ancora, capito? Quindi se ti va bene non c'è problema, lo facciamo. Va bene, io sono a polarizzazione orizzontale, non sono a polarizzazione verticale, sto usando l'altra radio e c'è il dipolo dei 10, 15, 20, 40 e 80. Capito? Sto usando quello. Vediamo un po' se Antonio mi sente bene. Antonio, mi senti? Sì. Sì, un po' più basso di segnale, Cla. Però già ti sento lo stesso, a voglia. Non lo so io come ti sto arrivando lì, E già arrivi bene. Il mio segnale, non ho capito cosa hai detto, che non c'ho voce. Non è come la Mantova, che è a fondo scala. Però già va bene. Io sono a polarizzazione orizzontale, ma arrivo ad Alghero, quindi non c'è un problema. Arrivo 9:20 ad Alghero. Va bene. Sì, vabbè. Quando vuoi, ti ho detto, fatti dare il numero da Vanni, mi chiami, ci mettiamo d'accordo e anche la mia è nuova. L'imballo l'avevo buttato via per non tenere cartone, ma è nuova. È già segnata elemento per elemento, non c'è da sbagliare. Poi c'ho il manuale suo, c'ho tutto, capito? E io già rispondo a tutti, io non c'ho niente da nascondere. Chiamami, ci mettiamo d'accordo e via, capito? Così me la togliamo mezzo ai piedi. C'ho il suo aggancio, c'ho tutto, è completa di tutto, non manca niente. L'ho smontata e messa da parte, sui mansarda, al calduccio, no, non c'è nessun problema, capito? Dai Roberto, ti devo lasciare che mi hanno chiamato a cena. Chiamami, fatti hai il numero da Vanni e chiamami, poi ci mettiamo d'accordo. Ok, Antonio, vai per Alghero, io sto andando a cenare, vai, ciao. E se avessi allontanato Antonio, dai. Yeah. Non più tardi, magari se coincide, Roberto, ciao. Come io ti sento? Capano, già ti sento bene già. Solo che io sono un pochettino meno favorevole sono, però già non c'è problema, capito? Ma in AM pure lo senti. Ah Robè, in AM lo senti Antonio. Prova, passa in AM, vediamo se ti sente da quella posizione Alghero. Attenzione Alghero, mi senti? Ti sente proprio a livello di QRM, proprio basso, basso, basso. Tu non lo senti neanche, no? Io sono a polarizzazione orizzontale, Robè, mi senti lo stesso? Io va bene allora. E conviene passare in FM. Perché? Perché io no. Ho difficoltà a sentire l'amico. E io vabbè, fanno mangiare Antonio, passate voi in FM, già sentiamo le truci. Ciao. Ciao Robè. Aspetto una tua chiamata allora, ok? Sì, se può passare in FM. Sì, passa in FM Antonio, vai, vai, passa in FM. Mi senti? Cappa. Comunque dovrebbe andare bene questo, dai. Va bene in FM, o provo un'altra radio che va un po' più forte, se vuoi. Dai, aspetta un attimo. A vedere se va un po' meglio, a vedere se va un po' meglio così. Attenzione l'amico di Alghero, mi senti? Forte così, così già va. Va un po' meglio, dai, perché sto utilizzando un altro tipo di radio. Per K, dai. Sto usando un altro tipo di radio, un altro tipo di emissione, dai. Scappa, sto utilizzando il DM1000. Non capisco perché in AM no. Ti sento, ma ti sento pio pio in AM. Scappa, non lo so la ricezione poi com'è. Comunque sono contento che arrivo da te, a Alghero. Non è vicino, no, da dove sono io. Sono 50 chilometri. No, 50 chilometri no, ma quasi, dai. Io sono a Sassari, però abito in una zona bassa, è sfavorevole per me anche. Sfavorevole per me, però arrivo lo stesso. Non so se tu sei con Mantova o non so con quale tipo di antenna stai uscendo. Che cappa, già spingi abbastanza, spinge. No, io sto usando una Ringolemme, sto usando. Cappa, però non il modello nuovo, perché il modello nuovo mi ha creato qualche problemino. Il modello vecchio della Ringolemme. Va. Cappa, prova a vedere com'è. Ma io sto pilotando. Questo qua ne ero sicuro che andava un po' meglio, andava. Sto dando un po' di potenza perché almeno riesce a sentirmi un po', perché io purtroppo sono in una zona bassa sono, e quindi è un casino per me, soprattutto in certe zone sono, come si dice, sono negativo sono. Kappa, dai. E poi questo tipo di radio lavora molto bene in FM. L'altra, boh, mi fa un po' così, ma questo tipo di radio lavora molto bene. C'ho un Alfa Yeti Zeus. Alfa Yeti Zeus sto usando, però già spinge, dai, con un microfono DM1000. Vabbè, l'altro, dice, magari si addice di meno. Però già fa lo stesso, dai. Non avevo mai, cioè, la verità, sapevo che andasse, però così lunga distanza non l'avevo mai utilizzato in FM. Che dai, mi ha fatto piacere sentirti. Ci sentiamo alle prossimine, grazie per la chiacchierata. È la prima volta che riesco a comunicare con Alghero. Ok. Ciao, ci risentiamo alle prossime. Antonio Bombo da Sassari ti saluta. Ciao ciao. Le batterie crepate. No, le batterie sono nuove, come sono quelle di mamma. Quindi non fate nulla. Poco fa sono fatto una chiacchierata a Alghero in FM. Bravo, bravo, meglio così. Alla fine arrivo anche a Alghero. E da lì sì, da casa tua è un po' difficile. E da casa mia. Sì, da giù, dico, contando da giù. No, da casa, da casa. Da qua. In FM ce la faccio arrivare. Meglio bussi? Purtroppo sono sfavorevole per quelle zone. Però so che arrivi di una tesi. Buonasera, buonasera Tonino. Ciao Antonio. Allora. Che si dice, che si dice? Dimmi. Gnocchi, uia. So che c'è la cola a travaglio, gioco. A che sondo si c'è la cola a travaglio? Ma. Che cazzo di bomboli, sono micidiali, di droncani rossi, mi. Lo so, mi ha preso una nuova oggi a mola, no per me, per la 50 comunque. Sì, stamattina ho lavorato, ho finito 2:10. 2:10 ho libero, ma libero un cavolo. Per una cosa e l'altra sono venuto a casa a Baggio. E due o tre passaggi in marocchino con Gianni, Claudio, poi insomma. Ho preparato un po' cosa a mangiare e fatto che entriamo più o meno a quest'ora. Mi poco fa mi stavo facendo una chiacchierata in FM con uno di Alghero. C'era stamattina per il banco, Alghero. Sei andato tu, Alghero? Cata stamattina, sono partito alle 7:30 da Sassari, alle 8 ero già Alghero. Quanti chilometri sono da Sassari, Alghero? 34-35. Non è vicino, no? Non è vicino, eppure sono arrivato lo stesso. Sì, non è vicino. Non è mica lontano, lontano. Io vado anche a Roma, che sono 74 chilometri. Cappa. Sì, 52. Cappa. Non è che sia neanche vicino, vicino, no? Anche una volata, dai. Noi abbiamo macchine che camminano, capito, turbo. Cappa, boh, da me è negativo proprio Alghero. Eppure sono arrivato lo stesso. Perché come sei andato in bicicletta? Oh, al baracchino poco fa c'era un signore di Alghero. C'era uno di Alghero e ci abbiamo fatto una chiacchierata in FM. In FM già ce la faccio, dai. Io pensavo un riferimento in macchina, coso, e cavolo. No, al baracchino lì nell'aria cosa sono? 20-22 km. Ma. Però per me è negativo. Perché è negativo? Sei libero dove sei tu? Cosa libero? Lascia perdere. Sono più libero nella zona di su che nella zona di giù. Verso la zona di... Verso la zona di Claudio sono più libero. Qua no. Verso la zona di giù non ho mai capito perché. Perché io poi sono dentro un pozzo. Hai capito? Se ho stato... nella via di su, guai, allora sì che non ci avrei avuto nessun tipo di problema. Io sono negativo. Sono Alghero, da questa zona. Proprio nulla. Può succedere. E magari ti sento lo stesso, ma basso. Sì, ma a me non è che mi riguarda più il tanto, mi è nato tosse la vita a me, ma... Vabbè, lo so, però anche la soddisfazione è arrivare lontano. Io sono arrivato a Giacarta, che è dietro l'Australia, da Gito tutto. In altri tempi che vabbè, ho giocattolo. No, stesso baracchino che ho adesso. Ma l'anno fa magari c'avevo una posizione migliore. Vicino a questura abitavo. Cazzo, io la questura non è che ce l'abbia tanto lontana da qua, è vicino. Però io purtroppo su certe zone sono negativo, perché sono dentro un fosso, capito? Io sono positivo per sorso. Se c'è qualche cimia che ha sardo io riesco a sentirlo. Sì, tu sì, io forse molto di meno. C'è il pro e il contro. Ma non è che guardo queste cose, uno. Uno che passa la cosa per la cosa, Santiago 9-5 arrivava addirittura. Buono, ultimo. Il capo, no, Porto Torres è già l'altro giorno da Claudio, da quel Claudio che parla, e mi sembra che ero 7-8, non male, dai. No, a me è arrivato di più, capito. Vediamo se si è affacciato Gianni, no, l'ho portato il cane a fare bisogni, e poi qualche piccolo mangiare. se nulla. Ma di solito non entra mai, strano che ti abbia detto così. Sì, io già entro. Adesso capendo, la gubbetta. Ah no, la mara, beh, ecco qua. La gubbiglia, è che sono salito io. E la coperta da letto, da sotto, è che c'è la casata sotto al letto. Sì, ma io ti sono salito un pochino proprio. Già lo so come ti chiama la cosa, la mano mi viene. La manta, avanti, chi è Gianni? No, sare. Bicicletta. Poi bicicletta. Torino, Panifella. Ah, tu un paraguma mi ha inculato, mi ha porca paletta. Il telefono non carica. Come non carica? Ma dove? No, un telefono cordless, quello da taffini. Con assoni, ti sono che quando lo vedi a caricare deve segnare la batteria che sale, ma se vuole rimanere fermo, secco, sai che è pesto. Ho misurato le tensioni e arrivano le tensioni. Ma non sono batteria interna che c'ha che è partita? No, le batterie sono le stilo, no, ricaricabili, le ho messe nuove, dalla Duracell. Non lo so. Chiare il guaccio. Questa qua c'è una batteria che si è fatto un account così. Non è lui manco lui. Ecco, ci dà un metà valigio. Dice che abita a Sant'Orsola. E tu? E avanti! Ma ce lo vedi con bicicletta? Che cosa guasto? Bicicletta, non ho capito cosa hai detto. Ma chi hai detto che cosa guasto? Giuga putti da bicicletta. No, bicicletta si non ho di bicicletta io. Davvero. Gianni, doppio root, ci sei. Gianni, Panifella. Anche ho chiamato, si entrava pure il buono, anche entrato. Qualcuno sotto, avanti! Non lo so. Io non ci dice nessuno. E capa, no, mi ha asfaltato un po' la situazione. Dai, che lavoro domani, fino a mezzogiorno, tu ferie. Domani sei in ferie. Oh, ma tanto che ci si ghizza a lavorare, mamma mia. Io lavoro sino alle 7.30, sino a mezzogiorno meno 20, perché poi devo fare il giro apposta, provincia, Maldinica, finisco l'una e ho finito, vado in ferie e rientro 4. Capa. Ehi, oggi, okay. Domani, ciao. Domani, secondo come si prospetta, ho lavorato tanto oggi. Domani mi c'è i bideggiani. La tua moto non la guidi, no? No. Sto prendendo la patente. La macchina non ha più nessuno quasi moto. Come la macchina? Anche il mobile, come la macchina dei guidi? L'autocarro, dai, lo Strada, Fiat Strada Bianco. Capo, ci andiamo anche noi con lì la strada. Già cammina, già. Vabbè, non come le nostre. Non so tutte 1.900 turbodise, quanti jet. Alle volte sono 1.900, sono. No, al nostro è multijet 1.300, perché poi c'era il Comorrel che era 1.900 e camminava in Cosa Mara. Ora viene di buono, il Max è buono, la mia, vedi, vedi veramente. No, vanno bene. Noi ce l'abbiamo, mi pare, da 2006. Allora, i chilometri che ha fatto questa macchina. Dappertutto è andata. Dove è cambiato? Ho cambiato il programma. Da Porto Torres, Sassari, so che faccio anche la posta. E va bene così. E siccome non se ne fanno pagare a seconda mano queste macchine, e fatti di pagare un bel me. Cioè, perché tu vai a comprare una strada recente, 1.300, cazzo, minimo lo paghi 5-6.000 euro, me, perché sono macchine molto, molto cercate. Poi se vuoi quello, il modello più vecchio, ma sul gonto. Da noi una 12 anni massimo la macchina, la vendono a noi stessi prima, 300 euro, il doppio, quelli 1.900 turbo diesel, e prendono tutte le macchine nuove, noi abbiamo tutta una serie di macchine nuove adesso, va bene veramente, macchine che sono infinite, lavorano sempre, funzionano bene sempre. E vabbè, voi le rinnovate, le fate, però se rubia uno che la tiene bene, bene, bene, bene, bene, si fate tutti i ritravagli, io ce li dura pure 20 anni. Cazzo, ci sono fiorini di vecchio stampo che ancora sono in circolazione. La macchina mia ha 310.000 km. Aido. E il motore è un gioiello ancora. Beh, la mia è americana, per fondo. Vabbè, americana e europea, diciamo. E a diesel vanno bene. Cavolo, c'è un mio amico, ce l'ha, che lavora con me. Ci ha dovuto fare l'impianto a gas, c'ha il 1004, c'ha l'H. Si pone 20 euro di benzina, cioè ti ne su c'è un poco tempo, c'è dovuto fare l'impianto a gas perché consuma un bel. Tu dico americana, tu mi dici europea, la mia è americana ma di USA, ti faccio vedere il libretto. Ah, vabbè, forse non lo so, l'hanno portata da lì, ma il solito, vabbè, è fatta, diciamo che magari il coso è americano. La cosa l'ho fatta in versione europea, perché se fosse stata davvero americana non l'avresti tenuta, perché sono quella le macchine americane lo sai meglio di me, che sono 8 cilindri o 6 cilindri, consumano un bel. Però è magari fatta in America, però in versione europea, capito? No, il mio Ford è Focus 1.8 turbo diesel. La capiti che non è come sei già tu, è americana e buona. Sì, questo leggero magari è costruita negli USA, però è fatta, le macchine sono fatte per il mercato di qua, sono fatte, capito? Cioè è costruita lì, e tu magari fa tutto fatto lì e cosa, però se tu vedi la macchina vera americana, cioè se tu la stessa macchina la vedi in America, cazzo è un mostro, Guarda che ci sono anche le Fiat mie, italiane che sono lì in America. E allora per quello cosa devi dire, sì, fatta in Italia ma è americana, no, ci sono macchine americane, macchine cinesi, macchine di tutto il tipo, diciamo, la Volkswagen tedesca, l'Audi, Mercedes, ci sono americane e asiatiche per la sua che la compagna. Sì, no, non lo metto in dubbio quello, però se tu guardi la Fiat 500 che fanno in America è diversa da quella che fanno qua, è una sagosa. L'avranno copiata la questa ragazza in gare, No, rimane più grande, rimane, perché loro hanno quello stile lì, hanno, rimane anche di cilindrata, è molto più alta, capito, per quel mercato lì. Guarda che qua c'è la 500L o la 500X che è un bel manna mia, a me non mi piace, va detti. Poi, le macchine, non pensa che sono marosone, sono i cani, non pensa che corrono un bello, ma... Sì, no, quello lo so, non è che corrono un bel, ma benzina o gasolio è poco giù, c'è ne chi sì. Perché vabbè che loro la pagano una miseria, hanno un altro tipo di cosa. Dici che ci sia. Un attimo, scusate che sto controllando, sto cattivi su eBay, ma su YouTube a vedere un po', non carica la carta di telefono. Forse qualche cosa che ti sfugge via. No, niente, perché c'ha la basetta, è possibile che mi sfugga qualcosa. Ah, la basetta. A proposito di basetta, io domani mangerò il bello con la sera, non voglio farmi di vizio con il bello notte. Io mi aiuto a tagliarti, sabato che gli ho fatto, una festa del compleanno con poche persone, proprio eravamo in sei, fino in sera qua. Ah, adesso siamo in due, io e la mia compagna. E chi se ne frega? Io la 50 mia figlia. Lo fiamo via, che sei un casino. A chi noi, non siamo in due, lo mattesse. avanti già. Sì, voi siete in tre. Ma cosa in tre? No. Sì, non te l'ho detto, ma già te lo dico quando ci sentiamo cosa è successo. Ma già ne lo so già, raga. Gianni, no, ma di solito, magari hai detto così, ma di solito no, non entra mai a quest'ora, perché lo so, da pochi fini no. Oh, qua c'è stasera qualche eccezione, eh. No, io già ho sentito qualche volta di notte io, dai. A me mi è capitato, è rarissimo che mi sia capitato anche in passato. Ok, se non è gana, entra. A meno che si sblocca, ma il barocchino c'era lì, non si può ricca. Come devo dire, si dromme, gaga. A meno che il salotto stava andando con che film. Io ti dicevo, e domani si lavora a casa, ma guarda a dormire, so che è intorno, non si più da sonno. Poi, il bagno lo attribuo, si chiama, fa cura. Questa so, balzetta mi ha fatto male, ha fumicato, si è fatto le favette, Andiamo piano, non si gode. Una volta mi ha giomagnato un bel dubbetto, mi ha fatto male. Ma un bel mi ha giomagnato. Cavolo, mi ha fatto male. Sì, vabbè. Mi andrà bene. E così. Cavolo. Dopo una ricezione sta a radio. È la migliore di tutti in ricezione. Capo, una sagoglia. Oh. E tu, quando ammasso loro fighini ti porto a 7-0. Diego zero? Sì. Come mai? Vabbè, io sto andando con poca potenza adesso. Gli altri, 4,5, 5, tutte le fighe a 0 però, Gianni Maria Santiago 9,10, con le fighe a 0, se è fatto scala. Poi c'è un altro che è ancora più forte, Riccardino che la sta più entrando. Se vuoi fai una prova a me, un attimino, a vedere se te lo apro. Prova. Vedete, 2 minuti, da. Sì, sentivo zero proprio. Ti sento più come se fossi chissà di. E io come ti arrivo? Adesso sei forte tu. Aspetta 2 minuti a vedere, facciamo una prova. Ma tu le fini ce l'hai? Allora Giulia. Aspetta. Porto la zero. Oh, vattoni. Guarda come ti arrivo. 1, 2, 3, prova di modulazione. 5, 7, sì. E adesso? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se c'è Tiango 1, sì. Quindi se c'è una negativa, tu devi attaccare. Adesso c'è una poca potenza. Aspetta che provo a aumentare io. Dai, attacca. Ok. Antonio, e mi hai fatto nulla attaccato. Come a vedere, Antoni, a vedere com'è. Sette contro la stessa vita. Così poco, è un po' buzzecco questo, Allora, mio caffetto. Quanto hai messo sotto? Ah, è un po'. Un po' quanto? Quasi 100 watt. Sei in zona negativa per me, non hai capito. Però arriva abbastanza forte, dai. Prova adesso normale con lo figlio aperto. 1, 2, 3, prova. Sei 9,25. Se abbasso il figlio, se ti ho 3. Io da lì mi raccolgo il segnale che sono più forti, capito? Da porto a 0. Sì, vabbè, poco fa stavo usando poca potenza. E Luca com'è? Più aperto di me? La voglia. Ti ho detto che sono diventato busso. Luca mi dice che? Luca. Luca mi sembra che arriva a 7 mi sembra. Con le fighe chiuse. Normale 9,30. Cata. Vabbè, di poca roba, dai. Adesso prova a rimetterlo normale. Con i watt dell'apparecchio, dai. Lo spengo questo qua. Ma attenzione, in doppio. Claudio, sì. Attenzione, chiudo l'uscinito. Hola. Oh, lava più bianco. Ecco qua. Sono normalissimo, sono. E giù. Mi è risciuto. Sacco tutto. E giù. alimentatore piccolo acceso. Com'è? Normale. Sono tipo zero. No, col coso aperto. Nuovo 5. Sì, va bene. Va benissimo, dai. Da. A Puglia. E c'è una cicletta di uomo? No. E che cos'è? Arringo, Ma è lungo, è alto, l'ho visto a casa sua. Sì. Alta 5 metri, mi pare. Mezz'onda? Sì. E il palo quanto alto ce l'hai? Sono un po' lecco. Il palo sarà 2 metri. Sì, io sono 6 metri, devo rimunirci di 2-3 in alto. Che va a fare? No, non lo metto troppo alto qua che ho paura. Non si sa mai che non che. No. Va bene così, va bene. Non lo voglio mettere troppo alto perché c'ho il cernaglio qua, sa mai che ne gaggia che cosa, e no che cazzo mi faccia tutto. Basta così, basta. Più ci sono altri 5 metri di antenna, dovrebbe bastare. Non è che sia, però già mi faccio sentire. No, io ho le campagne, non ho problemi, capito? Posso alzare canto luce. Per metterla così alta, 3-5 metri di baro, devo punirmi a centro stesso. Devo punire. E non è detto che qualche giorno lo faccia. E che dovremmo vedere, forse da qua, minando, ne prendo una più grande di casa. Io devo salire 10 metri tutto. Più lontano, quasi 7 metri. E mi metto una bella lucetta rossa. Ah, l'antiaereo. Meglio. E diventa sui 17 metri. Bello, eh? Ma già così basta. Acquisto di B in più. Ricezione e trasmissione. Non lo so, dopo tutto c'è un bel basso come... come cosa, come zona. Basso, sì, di tutte le parti. Ma dico, come magari come casa sei basso, no? Ho messo in villetta. Ma già andava. Ma io sono aperto per Sassari. Io sono in alto. Sì, meno male. Anche molti magari sono sfortunati e se risultano in basso, allora sì che mi devi alzare il baro. Io se metto livello, vado con l'occhio fino di livello, metto Sassari in basso. Allora già va bene. Ma voglio alzare ancora di più. Devo cercare il calibro, porca miseria, cacchio l'ho messo. C'era mezzo l'attrezzo, forse nella valigetta, devo controllare lì. Perché voglio misurare e mettere i tubi perfetti, tutto in cascio. Poi metti i tiranti. Certo, i tiranti bastano, con 10 metri di palo voglia. Ci vogliono per forza, ma cosa diventa pesante da voi? L'oscillazione che c'ha, 10 metri sono 10 metri. Ricordati che il palo vuole che flette, perché anche il grattacielo flette un po'. La torre mi ha fatto più santo, quella è 218 metri e c'è un'oscillazione di un metro circa. Se non oscilla, spacca. Poi puttana devi oscillare, sennò faccia tutto. E cappa. Andrà bene, ma poi c'è già la televisione. Oggi è così. Martedì. Sì, se no, so